Cari amiche e cari amici, buonasera, bentrovate, bentrovati con un po' di ritardo, insomma capita anche a quelli più puntuali, tra una cosa e un'altra, tra un tasto rosso, uno grigio e uno verde, sì, della regia e un microfono che vola a destra e l'altro a sinistra, capita di cominciare anche un po' in ritardo. Io do il benvenuto a tutti voi che siete all'ascolto, Maridia e microfoni, in Radio Alma, Bussellando 101.9. Saluto per la parte tecnica Daniele. Buonasera a tutti. Il nostro George. Salve. George, che cosa hai fatto al microfono? No, il microfono è semplicemente le cuffie che assolutamente non funzionano. Allora mi sono chiesto perché ed erano un po'. Allora sto cercando di mettere in piedi le cose che sono staccate. Sono un disastro. Un disastro. Come sapete, la radio qui si tiene con lo scotch. Volesse il cielo e fosse lo scotch. Salutiamo Fiordaliso. Buonasera. E veniamo alla nostra puntata di questa sera. Questa sera abbiamo come nostra ospite una scrittrice che abbiamo anche avuto il piacere di conoscere qualche tempo fa. L'avevamo proprio presentata a Bussellando, credo 2 anni fa. Aveva scritto sulla sedia sbagliata, probabilmente ve ne ricorderete. Il nostro Giorgio di sicuro se ne ricorda. Come no, il capitolo 17. È il capitolo 17 che ancora è rimasto impresso nella nostra memoria. Sara è al suo secondo romanzo. Questa volta il titolo è Un uso qualunque di te. La casa editrice l'ha giunti e devo dire che Sara ha fatto un ottimo salto di qualità. Il suo stile è migliorato tantissimo e la storia, vi assicuro, è appassionante. E riuscirete a leggere il romanzo proprio rapidamente e velocemente. Sì, insomma, è una storia che va letta così, tutta ad un fiato. Quindi io sono proprio curiosa di sapere dalla nostra amica Sara qual è stato poi il processo di scrittura, perché effettivamente la storia e la trama sono davvero molto ben costruite. Poi ci sono anche riferimenti letterari che per l'appunto durante la storia si intercalano quasi a voler respirare quello che è il succedersi degli eventi. Tra l'altro Sara ha questa peculiarità, riesce a descrivere questi eventi che cambiano poi il corso delle cose, che riescono ad influenzare il corso di una vita e non solo di una, ma delle vite che si intrecciano l'una con l'altra. Sara sarà fra poco con noi, quindi ci racconterà un po' lei i dettagli e i particolari. Io non voglio aggiungere altro perché altrimenti tolgo proprio il sale alla storia, non è questo il mio obiettivo. Veniamo invece ai nostri eventi della settimana. L'agenda di Bussellando non è ricchissima. Vi ricordo che c'è l'European Film Festival a Flagey. Vi ricordo anche che sono tanti film italiani anche all'ecran, quindi sullo schermo. Tra l'altro proprio venerdì 15 ci sarà un altro film italiano con tanto di aperitivo alle 20:30, quindi tutti coloro i quali fossero in area Flagey, non avessero preso ancora impegno, non sapessero ancora cosa fare, allora vi invitiamo veramente ad andare alla Place Flagey e a guardare il film. Mi scuso ma non riesco più a ritrovare il titolo, però so che è un film di qualche tempo fa, quindi insomma vale la pena vederlo. Il festival poi terminerà il prossimo 16 giugno. La seduta, quindi la seance, ha un prezzo abbastanza modico, 7,50 €, quindi per i bambini poi la tariffa è ridotta, ne vale assolutamente la pena. La serata poi finirà alle 23:30. Bene, allora io continuo, che stasera magari forse... anzi sicuramente non avremo il commento musicale, dato che come avrete capito c'è qualche problema, invece no, dalla regia mi fa il segno che no, poi dice... bravo Daniele, però ha risolto tutto, incredibile, non so come abbia fatto. Ci davamo già per spacciati, perduti, che non saremmo andati in onda questa sera. Stavamo già uscendo dicendo vabbè, questa sera picnic all'esterno, andiamo al cinema. Esatto, invece no. E invece se volete andare al cinema andateci, che va sempre bene. Ma la Cité des Enfants, è un'esposizione destinata ai bambini e alle loro famiglie, che ha come scopo quello di sensibilizzare un largo pubblico all'architettura e all'urbanismo brussellese. E quindi una scoperta interattiva e pedagogica del patrimonio della città e delle sue componenti, commerci, alloggi, luoghi di svago, gli uffici, parchi, quant'altro. Ci sono 4 sezioni. Quella locazione, imparare, divertirsi e lavorare, è una doppia lettura con piani, disegni, maquette, fotografie, oggetti provenienti dall'archivio di architettura moderna, da collezioni pubbliche e private. Insomma, attraverso giochi e l'aiuto di libri pedagogici, i piccoli visitatori potranno pienamente prendere parte all'esposizione. Vi ricordo l'indirizzo: Fondazione per Architettura, 55 Rue de l'Ermitage, a XL, per una tariffa molto bassa di 4 euro e le ore d'apertura il sabato e la domenica da mezzogiorno alle ore 6 fino al dicembre 2013, quindi di tempo. Insomma, c'è tempo, quindi magari lo ricorderemo anche più volte. Invece, per quanti volessero andare al cinema, la settimana scorsa sono andata a vedere On the Road, pietra miliare di quella che è stata la Beat Generation americana di Jack Kerouac, sicuramente un'interpretazione e rivisitazione abbastanza interessante. Quindi, per tutti coloro i quali non avessero letto On the Road, ovviamente vi invito a leggerlo. Tra l'altro c'è una stupenda traduzione di Fernanda Pivano, che è stata la prima che in Italia poi ha introdotto questi scrittori straordinari. Non penso soltanto a Kerouac, parliamo per esempio anche di Ginsberg, di Feringhetti, di quel gruppo insomma che fu in grado di risvegliare un po' quell'America un po' già addormentata degli anni 50. Il film è abbastanza simpatico, divertente, con qualche scena forte, quindi siate pronti anche a qualche scena un po' diversa dal solito. Però, per quanti hanno amato quell'epoca storica e letteraria, vi assicuro vale la pena andare al cinema e vederlo. Tra l'altro il film dura un po', dura circa 2 ore, quindi c'è una seduta alle 7, l'altra intorno alle 10:15, quindi insomma avrete modo di gustare veramente 2 ore emozioni che pensavate dimenticate. E poi Giorgetto, no, altre cose. Io invece ho visto un altro, anzi io so che Fiordaliso ha visto un film recentemente, un film che si chiama Scialla. Io avrei voluto vederlo, tra l'altro ho visto anche che è disponibile in DVD, quindi consigliami, un buon acquisto? Sì, secondo me è un buon acquisto. Beh, adesso non si può pretendere, non è un capolavoro, però è un film molto molto godevole, con degli spunti anche interessanti. Magari ne parliamo tra poco, sento che da Dani M lì dalla regia ci sono suggerimenti. Sara, ciao, bentrovata, bentornata a Brussellando. Grazie mille, sono molto contenta di ritrovarvi. Che bello, grazie infinite invece, grazie a te per essere con noi un'altra volta. E noi siamo contenti di averti potuto rileggere. Grazie, vi è piaciuto il secondo romanzo? Allora, lo dicevamo in apertura io e George, già il tuo primo libro ci era piaciuto tantissimo. Tra l'altro George ancora ricorda il famoso capitolo 17 sulla sedia sbagliata. Penso che chi abbia letto quel romanzo non può dimenticarlo. Non mi ricordo se era il 13 o il 17. No, è il 17. E questo è un po'... ci sono dei temi in comune, magari iniziamo così, no? Tu hai questa capacità di riuscire a descrivere delle emozioni, delle sensazioni intorno ad eventi che sono in grado di modificare il corso della vita, non solo poi del protagonista, come già era accaduto nel romanzo precedente, ma poi di più coprotagonisti, protagonisti che dividono la scena di questo tuo romanzo. Qual è stato il click? Che cosa ti ha fatto scrivere questo romanzo? Perché sono tanti i temi di cui tu parli, parli di un amore molto passionale, parli di più amore, c'è cioè un concetto di famiglia, ci sono tante cose messe insieme. Quindi partiamo con ordine, qual è stata l'idea? Come mai hai pensato a questo tipo di storia? Allora, guarda, un uso qualunque di te, devo dire la verità, è arrivato, come dico spesso, con la forza di uno schiaffo. È stata una sensazione un po' nuova, nel senso che non è stata una storia realmente cercata o realmente, come dire, pensata da me. C'è stato un momento in cui qualcosa ed è arrivata questa storia, un po' nella sua interezza. Credo che la forza di questo racconto sia proprio nel fatto che quando io l'ho scritto avevo perfettamente chiaro tutto, cioè sono arrivati i personaggi, mi hanno raccontato questo, un po' come se avessi visto un film, ecco, la sensazione di aver sbobinato, no, tra virgolette, una serie di immagini, quindi ho raccontato quello che stavo in qualche modo vedendo ed era con una forza, una chiarezza tale che mi sono rimasti proprio nella penna, quindi è stato scritto anche tutto di getto, non ci sono stati grandi costruzioni, grandi, come dire, sovrastrutture, neanche, non so, non ci ho pensato così tanto. Infatti tutta la ricchezza poi di questa storia mi sta arrivando adesso, cioè adesso che le persone che lo leggono e ognuno dà un po' una chiave di lettura, un'interpretazione, ovviamente molto legata al proprio vissuto, questa storia si sta arricchendo di moltissime ulteriori sfaccettature che io all'inizio in realtà avevo un po', come dire, tenuto forse nascoste, un po' assopite, e sta, è bello perché mi sta maturando, come dire, sta crescendo, ecco, un po' dopo averlo partorito ora sta proprio crescendo lentamente. E ripeto, c'è stato un click fortissimo, come l'hai definito tu, però non ti... Beh, questo è evidente, perché reale. C'è questa adrenalina poi nel libro, che parte dalla prima pagina fino all'ultima, e poi è un crescendo, insomma, il lettore non può che restare veramente, dico letteralmente, attaccato alla pagina, e non può non finire il libro e viene da dormire. Quindi voglio dire, insomma, la trama mi è sembrata veramente ottimamente costruita dall'inizio fino alla fine. Veniamo ai temi, perché quello che mi è piaciuto proprio tanto di questo tuo libro è che ci sono tante cose: c'è l'amore, c'è l'amicizia, c'è il tradimento, c'è il senso di colpa, la fragilità umana. Diamo un po' una valutazione di questi sentimenti un po' tutti insieme, senza svelare troppo il libro, perché purtroppo non possiamo svelare molto, altrimenti anche la storia perde un po' il suo fascino, però questi mi sembrano essere i capisaldi intorno ai quali poi tu hai narrato la tua storia. Sì, assolutamente, sono i sentimenti umani, essenzialmente l'amore, no? Questo amore che viviamo sotto mille forme, no? Perché appunto non c'è soltanto l'amore così uomo-donna nella relazione, ma c'è l'amore attraverso un tradimento, c'è questo amore, diciamo, paterno, pazzesco. Sono tutti questi sentimenti che io sento, come dicevi tu all'inizio, a me piace raccontare storie di personaggi e raccontare anche che cosa accade agli altri, a tutte le persone che in qualche modo ci trasciniamo dietro seguito a tutte le azioni che facciamo, perché qualunque cosa noi intendiamo fare ovviamente ha sempre delle conseguenze che non paghiamo mai da soli, ecco, non siamo sempre noi sulla nostra pelle, ma ovviamente ci trasciniamo dietro tutte le persone che in qualche modo sono lì ad amarci, ad aspettarci e in qualche modo a condividere con noi la nostra vita, quindi la voglia è sempre un po' quella di raccontare sentimenti molto moderni, tra virgolette. Ah no, assolutamente. Anche nel tempo, ma anche molto moderni. Ci sei riuscita benissimo, credo. Meno male. E poi c'è questo omaggio bellissimo sia alla paternità che all'amicizia. Sì. Che sono altri due temi forse di cui non si parla moltissimo, nel senso, cioè se ne parla molto, ma in realtà non si scrive moltissimo di queste due cose, e io li ho ritenuti fondamentali. Devo dire che sulla paternità è arrivato naturale, la descrizione di Carlo come papà è uscita dalla penna, serenamente. E sul rapporto invece sull'amicizia ci ho messo del mio, ecco, più, non dico che sia autobiografico, perché ovviamente io non sono né l'una né l'altra, però è vero che quel tipo di amicizia, diciamo legato un po' alla complicità, no? Che arriva ad essere complicità, è un qualcosa che conosco bene, che trovo che sia una delle più belle forme poi dell'amicizia tra donne, ecco, forse sia quella vera, perché poi è così che deve arrivare, ecco, si può definire un'amicizia vera quando poi si è veramente complici. Assolutamente, insomma, è molto bello il rapporto che tu descrivi tra la protagonista Viola e la sua amica Angela, in cui poi c'è un po' l'angelo e il diavolo e l'acqua santa, potremmo dire così. Quindi hai ritratto due amiche abbastanza complementari, che però proprio per questa loro complementarità riescono a stare insieme, tant'è che sono un'ottima coppia, se vuoi, a livello commerciale di affari, perché gestiscono una galleria d'arte, mi sembra di capire, anche con un discreto successo. Però non parli solo della paternità, tu hai mi sembra di capire che, allora, da un lato c'è questa paternità che viene descritta un po' come protagonista nel libro, però poi c'è una visione di maternità che è data dalla protagonista e che si svela soprattutto verso la fine, in una lettera bellissima, di cui Giorgio leggerà qualche riga, perché penso valga la pena di condividerla con i nostri ascoltatori, tra Viola, quindi la protagonista, e la sua piccola Luce. Come mai questa contrapposizione? Ma allora, Viola è una donna complicatissima, che si trova perennemente, diciamo, a lottare con il suo senso di inadeguatezza, no? Che è un po' uno di quei sentimenti che, insomma, una buona parte della generazione delle donne moderne, diciamo, devono un po' tenere conto, quantomeno ci fanno un po' a pugni con questo senso, appunto con questa sensazione di non essere mai al posto giusto, di non essere mai all'altezza della situazione che hanno di fronte. E devo dire che Viola l'affronta sempre in modo un po' discutibile, perché lei fa cose, insomma, è sempre un po' in ritardo sui tempi, o è una che tende a essere un po' bugiarda, a non apprezzare le cose belle che ha e quindi a non comportarsi in modo, diciamo, completamente convenzionale. È vero che poi invece attraverso la maternità lei troverà un senso alla sua vita, lei farà qualcosa per cui che sarà spinta esclusivamente dal suo amore di mamma, e in quel modo, in qualche modo, troverà i suoi panni, no? Vestirà i suoi vestiti anche se solo per un attimo, ed è per questo che io dico sempre a chi inizia a leggermi di non odiare troppo Viola all'inizio, perché poi alla fine si avrà voglia in qualche modo di abbracciarla, perché diventerà più simile di quanto crediamo noi stessi, no? Più debole di quanto noi vogliamo accettare noi stessi. Mentre Carlo invece è un personaggio più lineare, più pulito, e quindi c'è il suo amore per questa figlia probabilmente è anche legato al fatto che non riesce in qualche modo completamente ad amare o a essere amato dalla moglie, dalla Viola stessa, quindi questo suo desiderio di essere, come dire, padre forse è anche un po' una conseguenza del, appunto, di questo amore difficile. Spessissimo noi stessi siamo migliori quando abbiamo vicino qualcuno che ci permette di essere migliori in quello che siamo, no? Assolutamente. Quindi, ovviamente, vicino a questa donna, e deve assolutamente sempre, come dire, un po' risolvere i suoi guai, e ovvio che dà sempre un po' il meglio di sé, no? E lei glielo lascia fare, perché ha capito che lui è bravo in questo. Assolutamente, sì. Anche se poi lui è un amore autentico, io credo che Carlo sappia amare in quel modo un po' limpido, no? Per cui si ama nonostante tutto e nonostante tutti, accetta le persone, la figlia e la moglie per quelle che sono, e non le vuole cambiare, che credo che sia un esempio elevatissimo di amore. È vero che invece Viola, ad esempio, ama a modo suo, poi si fa spesso, no? Assolutamente. C'è anche un'altra domanda che volevo farti, probabilmente questa cosa è voluta nel romanzo. Il ruolo invece di Luce, che è protagonista in un certo senso, però non lo è poi come figlia, escono poco i sentimenti filiari e ci sono quelli più, diciamo, di entrambi i genitori. Questa è una mia interpretazione, poi posso sbagliare ovviamente. Questa figura è voluta, l'hai voluta proprio così, oppure scrivendo è nata così un po' come figura evanescente? Ma devo dire che non è stato ovviamente voluto. Il ruolo di Luce, che è il nodo focale di tutto, no? Di tutto quello che succede, cioè grazie a lei o per lei si scopre quello che si deve scoprire, quindi, insomma, questa famiglia si trova un po' a fare i conti con quello che hanno costruito, e quindi, insomma, ci si guarda in faccia un po' per la prima volta. Lei sì, rappresenta un po' l'adolescenza, forse un po' infantile, no? Adolescenza un po' in pericolo. Lei è una ragazzina apparentemente normale, un po' come i ragazzini di sulla sedia sbagliata, no? Questa generazione che in qualche modo io non riesco ancora ad abbandonare, perché è una generazione che a me intriga, piace da matti, e quindi raccontare tutti questi pensieri, no? Questo scontrarsi tra il senso di appartenere a un gruppo e il senso di voler essere se stessi, e spesso si fanno, diciamo, delle grandi cretinate. Assolutamente, è vero che sì. Alcune cretinate passano assolutamente, come dire, in sordina, nessuno se ne accorge, la vita va avanti, te le perdona. Alcune volte invece, insomma, ci rimane un po' incastrato. Luce è una di quelle che ci rimane incastrata per un errolaccio e trascina i suoi genitori con sé in un vortice, appunto, di grandissima sia crudeltà da un lato che di grandissima emozione. Sì, assolutamente, condivido. Comunque, sì. non aggiungiamo altro perché altrimenti temo che possiamo svelare qualche dettaglio. Prima che George ci legga questo passo, che è stato uno di quelli che più ci ha colpito del tuo libro, ho ancora un'altra curiosità. Come mai hai pensato di inserire tra un capitolo e un altro degli estratti dei romanzi più celebri, da Tristano e Isolda, Romeo e Giulietta, Orfeo e Euridice? Ovviamente a me è piaciuto tantissimo, tra l'altro ogni brano è ben collegato anche alla storia. Pronto? Abbiamo perso nello spazio Sara. Pure Sara si sarà emozionata. Sara è così spaziale che pure, è persa nello spazio. Forse pure il telefono si è emozionato, perché è veramente un libro che vale la pena leggere dalla prima all'ultima pagina, e per l'appunto tutto d'un fiato. Però nel mentre che Dani M contatta la nostra Sara, George, che ne dici? Condividiamo un momento di questo romanzo? Sì. Però non quello, o vuoi condividere quello che avevi. Decidi tu, vabbè, mi piaceva quello, però forse è vero, sveliamo troppo con quello. In effetti... Sì. Vabbè, allora leggi, decidi tu, feel free. No, non lo so, io intanto leggo questo. Va bene. Che non c'entra nulla. Psiche non la smetteva più di guardare le armi dello sposo. Con insaziabile curiosità le toccava, le ammirava. Tolse persino una freccia dalla faretra per provarne sul pollice l'acutezza, ma per la pressione un po' troppo brusca della mano tremante la punta penetrò in profondità e piccole gocce di roseo sangue apparvero a fior di pelle. Fu così che l'innocente psiche, senza accorgersene, si innamorò di amore e subito arse di desiderio per lui, gli si abbandonò sopra e con le labbra schiuse per il piacere, di furia, temendo che si destasse, cominciò a baciarlo tutto con baci lunghi e lascivi. Ci sono vari ricordi, diciamo, della migliore letteratura. C'è anche Abelardo e Eloisa, per esempio, un brano tratto da questa bellissima e stupenda storia d'amore medievale. Sara? Sì, eccomi. Eccoci, c'eravamo giusto un attimo. Esatto. Allora, stavamo parlando di questa tua scelta, probabilmente avevi già ascoltato la domanda, poi è caduta la linea, su riportare nel tuo romanzo alcuni dei passi più celebri della nostra letteratura, da Tristano e Isolda a Orfeo e Euridice. L'ho trovata una bellissima idea. Sì, io devo dire che ho fatto una ricerca abbastanza, come dire, centellinata, abbastanza mirata su quelli che erano i brani da scegliere, che appunto su tutte le cose che avevo letto, soprattutto diciamo ricordi un po' di un'età un po' più giovane, quindi legata alla scuola, e quindi sapevo di poter trovare lì gli argomenti che mi stavano stuzzicando del romanzo. L'obiettivo non c'era un vero e proprio obiettivo, era più un'esigenza, la voglia di fare un omaggio all'amore eterno in qualche modo, no? Queste storie d'amore che attraversano i secoli e che in qualche modo ci accompagnano, che di cui tutti abbiamo sentito bisogno di, come, di avvicinarci almeno una volta, ecco, anche che magari non attraverso grandi letture, ma attraverso il teatro, attraverso appunto il racconto di questi amori che ci rappresentano, no? In qualche modo è un po' quello a cui, tendiamo, o a quello a cui invece diciamo. E lì era proprio una voglia di intervallare questa storia moderna, così attuale, che era legata a sentimenti appunto in cui c'è una donna estremamente, diciamo, dei giorni nostri, una traditrice, una figura un po' ambigua, con tantissimi vuoti, quindi intervallarla durante questa scrittura, appunto, di questa storia così attuale, con dei riferimenti, degli omaggi ai grandi classici, a queste storie che in qualche modo nella mia vita mi hanno fatto un po' pensare, mi hanno fatto sognare e mi sono rimasti incollati. Quindi era più così una voglia mia che non un obiettivo finalizzato, diciamo, alla creazione di una storia. Guarda, è veramente stata un'idea geniale, perché effettivamente, come dicevi prima, si percepisce leggendo che quel paragrafo è stato scelto per un motivo, perché in un certo senso ognuno degli interventi che tu hai inserito poi dà un po', continua questo filo conduttore della storia, quindi insomma ci tenevo anche a sottolineare questo aspetto, perché l'ho trovato estremamente interessante. Sara, so che il libro ha avuto tantissimo successo in Italia, sono state fatte già tante ristampe, e che cosa si prova quando si sa che il proprio libro è così letto e apprezzato e che comunque ci sono tanti echi positivi? Beh, allora sì, siamo arrivati alla quarta ristampa nel giro di un mese e mezzo circa, quindi insomma è considerato un successo così letterario, ma io fondamentalmente sono estremamente felice ed è una sensazione che ho sempre intenzione di tenermela stretta, perché insomma cade dal cielo, è un premio, una gioia, è un sogno che si realizza e credo che vada visto e coccolato in questo modo, perché sì, che è quello che voglio fare, la scrittrice, ma è anche vero che dipende poi molto dal giudizio del pubblico, quindi non posso che essere assolutamente, come dire, orgogliosa, sono anche molto lusingata di quello che pensano, di quello che scrivono, ma per un motivo molto semplice: io non sono praticamente una che scrive per gli altri, nel senso che l'uso qualunque tema come sulla sedia sbagliata sono state due storie scritte per una mia esigenza, per una voglia di buttare fuori un'emozione, una sensazione, una storia. E quindi è talmente tanta l'emozione che io provo durante la scrittura che sicuramente non ne posso fare a meno. E quindi scrivo per me, perché mi emoziono proprio nel farlo. Io infatti credo che nei momenti in cui tocco le corde, come dire, emotive di chi mi legge, sono gli stessi punti in cui la prima a commuoversi sono stata io mentre lo scrivevo. Ed è per questo che dico non scrivo per gli altri, sono lusingatissima ovviamente di essere letta dagli altri, sono quasi anche un po' stupita di aver attirato l'attenzione insomma con così tante copie vendute, e quindi non posso che esserne appunto molto molto molto orgogliosa, in qualche modo molto, molto contenta. Stai già pensando a qualcos'altro? Stai pensando di scrivere già un'altra storia oppure ti godi questo momento? No, proprio per il motivo che ti dicevo prima, che scrivo per me, quindi che scrivo per la mia emozione, scrivo, continuo a scrivere, quindi in questo momento sono alle prese con la storia di un uomo, sto tentando di raccontare un'emozione vissuta dall'altra parte, perché è vero che la mia è una mano femminile, è vero che raccontare una donna in qualche modo mi viene semplice, per quanto possa essere una donna che non mi assomiglia nei gesti, è vero che tutte quelle sfaccettature tipicamente femminile, no, quel caleidoscopio di emozioni che noi siamo, è una cosa che tiravanando dentro di me riesco, certo, a tirare fuori. Assolutamente. Perché anche gli uomini ovviamente soffrono, piangono, trovano emozioni, è però un po' più lontano, quindi sto tentando di raccontare l'amore visto dal lato maschile. Vabbè, con Carlo mi sembra che tu abbia fatto già un ottimo esercizio. Un buon lavoro, sì, è vero che Carlo, però forse Carlo è un po' un uomo un po' uterino in qualche modo, no? Sì. Un po' dolce, un po' un uomo un po' direi. Sì, un po' sensibile, esatto, quindi ti stai cimentando con altro, insomma. Esatto, un altro tipo di uomo, vediamo che succede. Riesco soprattutto, se mi soddisfa. C'è il nostro Giorgio che vorrebbe leggere qualcosina. Però dobbiamo chiedere il permesso, se tu sei d'accordo. Prego. No, ma anche perché sei d'accordo su quel punto in cui c'è una lettera di mezzo, ecco, se vuoi leggo questa. Per me era bellissima, senza spiegare perché c'è quella lettera, però insomma ci sono cose belle. È un po' una preghiera allo stesso tempo. Vai. Sì, è vero. Luce. Da bambina mi chiedevi sempre il perché del tuo nome. Mamma, perché mi chiamo come una cosa e non come una bambina? È vero, amore mio, ma ti chiami come la cosa più bella che esista. E io non avrei mai potuto chiamarti diversamente, perché sei stata il mio faro, la mia guida, la mia cosa giusta. Quando sei nata ero così felice che non avrei potuto darti altro nome. Tu eri la luce. Abbi cura del tuo aspetto e goditi sempre la tua età. Lo capirai un giorno quanto erano importanti. Lasciati fotografare, luce, tutte le volte che puoi. Sorridi e se hai paura balla e canta a squarciagola. Ti aiuterà. Prenditi tempo per te stessa. Rifletti chiusa nella tua stanza e leggi ogni cosa. Non importa da dove arriva. Sarà sempre un'occasione da cogliere. Non preoccuparti troppo del domani, i veri problemi saranno quelli che meno ti saresti aspettato di dover risolvere. e non essere crudele con gli altri, anche quando sarai molto arrabbiata e tutto ti sembrerà impossibile. Pensa alle tante cose che hai e non a quel poco che ti manca. Fai sempre tesoro dei complimenti che ricevi, perché con il tempo diminuiranno. Ragiona con la tua testa e con quello che hai imparato, non farti confondere dagli altri. Abbi cura del tuo corpo e della tua salute, saranno i fedeli compagni del tuo viaggio. Sii paziente più che puoi, sarà sempre la scelta migliore. Fai tante domande ma non aspettarti sempre delle risposte. Quelle ti arriveranno al momento giusto e capirai che prima ti sarebbero state utili come un libro scritto in una lingua che non conosci. Perdonami, ora, se non sarò accanto a te quando ne avrai bisogno. Ma non sentirti mai sola, perché io ti lascio vicino alla persona migliore del mondo, tuo padre, il numero uno. Qualunque decisione tu prenda, qualunque scelta tu faccia, condividila con lui, giorno dopo giorno. Lui non ti deluderà. Resta attaccato a tuo padre, lui è una vera roccia. Attaccati a lui, alle sue braccia, sia nei momenti belli che in quelli difficili. Fallo per te, ma anche per lui, perché ti ama più di se stesso. Fallo perché, se alla fine della tua vita avrai imparato ad amare gli uomini, sarà solo merito suo. Sono orgogliosa di averti conosciuto e che tu sia stata mia. Sii sempre te stessa. Sara, complimenti, questo è... penso sia veramente un omaggio a tante cose, alla maternità, all'amore, alla vita, e l'ho trovato bellissimo, insomma. Beh, non ti nascondo che, insomma, qualche lacrimuccia è stata quasi inevitabile leggendolo, quindi ti ringrazio veramente, perché è stata una lettura straordinaria. Tra l'altro Viola assomiglia tanto a una mia amica, e in quella storia io faccio l'angela della situazione, tra parentesi, quindi insomma sicuramente glielo regalerò, perché voglio che anche lei lo legga. Io volevo, Sara, è una bellissima lettera questa, perché in un certo momento tu scrivi, perché tu sei così, io sono informata e tu vieni coinvolto. È un pensiero di Viola verso suo marito. Io sono informata e tu sei coinvolto. Io, tu sei il sentimento, io la ragione. Quindi questo è bellissimo, perché poi insomma si trova. Amore psiche. Amore, sì, esatto, psiche, amore, sì. Psiche. L'abbiamo letto prima mentre cercavamo, insomma, di ripristinare il collegamento telefonico. È davvero molto bello, perché questa lettera che tu hai scritto in realtà mi ricorda nell'incedere, anche nel ritmo If di Rudyard Kipling. Ah sì, bravo, sì. Che è bello, perché è lucido, c'è del sentimento, ma è un sentimento misurato, quindi bilanciato, usato col bilancino, veramente una bella opera a sé stante. Direi pubblicare questa lettera, farla girare su internet come If, è una poesia più che una lettera. Soprattutto a te che piacciono, insomma, i ragazzini, che magari certe cose le snobbano, insomma, magari dette da qualcun altro possono suonare meglio alle loro orecchie. È vero. Sara, il tempo in radio è, ahimè, tiranno, siamo alla fine. C'è un messaggio oppure un saluto che vuoi indirizzare dai microfoni di Brussellando? Sì, ma intanto io sono contentissima di questa piccola tradizione che stiamo tutta la volta mettendo su, quindi spero appunto di risentirvi poi con le prossime opere, qualunque tipo siano. Ringrazio voi, che siete sempre così carini, e queste interviste sono sempre deliziose, ma perché mi permettono poi di raccontare un po' di più di questa storia. E do un mega bacione, un mega abbraccio a tutti gli italiani che vivono a Bruxelles, quelli che ci stanno ascoltando, e così mi farebbe piacere, come sempre, che a chi ne ha voglia mi possa comunque contattare con la mia email, che è sara.rattaro@libero.it, per dirmi quello che pensa con la massima sincerità, perché a me serve tutto, non solo i complimenti ma anche le piccole così obiezioni o le piccole complete critiche, tutto mi fa crescere, e quindi mi fa ovviamente piacere. Perfetto. Non posso fare altro che ringraziarvi di cuore. Sara, siamo noi che ti ringraziamo. Sì. È stato veramente un bel viaggio, sì, quello, insomma, fatto col tuo libro, quindi noi ti auguriamo di poter scrivere ancora tante altre storie e di poterle presentare qui con noi a Bruxellando. In bocca al lupo e spero a prestissimo. Grazie Crepi e a prestissimo. Ciao, buona serata. Alla prossima, ciao Sara. Ciao ciao. Alla prossima, ciao ciao ciao. Stasera potete scegliere di che cosa vi parlo, va bene? Sì, che bello! Allora, o vi parlo di un bel giallo classico del nord, scandinavo. Sì. O, aspetta l'altra possibilità, dopo potete votare. Posso parlarvi, beh, di un pseudo giallo un po' psicologico dove non ci sono nemmeno le arrestazioni. No, cioè, come? La gente non viene arrestata, non c'è l'arresto. E beh, non è un giallo classico. Allora, aspetta, partiamo da una definizione, da che cos'è un giallo classico e cosa non è un giallo classico. Beh, è giallo classico, difficile. La gente che si spara, gli arresti, interrogatori. No, non credo che lei voglia dire cosa questo. Vuoi dire? Ma in un certo senso voglio dire un po' quello, cioè nel senso che c'è un ispettore, c'è un assassino, qualcuno che comunque ha fatto qualcosa di male e si indaga a trovarlo. E alla fine molto probabilmente si arresta. La via può essere molto tortuosa, meno tortuosa, ma più o meno è questo la ricetta. Mentre nel caso del giallo, io ho letto anche un articolo molto interessante una volta in cui si trattava del fatto perché i gialli sono categorizzati come letteratura di meno. È vero che la letteratura giallistica produce anche un sacco di gialli che sono scarni dal punto di vista di scrittura stessa, e che molto spesso il talento di quelli che scrivono gialli classici è nel costruire una trama e non necessariamente e non sempre di costruire dei personaggi con tante sfaccettature, complessi, eccetera. Però e non è che sia uno sviluppo escluso, e ci sono anche un sacco di libri che sono ritenuti come letteratura alta, che però fondamentalmente sono dei gialli, cioè per esempio quello di Dostoevsky, Crimine e come si chiama? Punizione, come si chiama in italiano? Ce ne sono vari, quale? C'è quello di Crimine e Punizione. Come si chiama? Delitto e castigo. Cioè, si tratta di sinonimi, ma io non ci sono solo arrivata, vero? Crimine e punizione. Delitto e castigo. Però cerca crimine. Sì, per esempio sarebbe così. No, io sono partita dall'ungherese. Ah, ok. Comunque, interessante, vedi sto passaggio. Crimine e punizione. Sono sinonimi. Comunque, delitto e castigo, anche quello è un giallo, se lo vuoi, però fondamentalmente tutto si sta svolgendo non nella testa dell'assassino alla fine. E tutto si svolge, abbiamo fatto un passo un po' troppo attorno, ma tanto per spiegare che cos'è un giallo classico e un giallo non classico. Ma comunque, nella mia interpretazione, il giallo non classico sono quelli che comunque vanno un po' via da questa linea in cui c'è una vittima, ci sono delle vittime, ma le cose si svolgono in modo diverso da altri posti, non per le, cioè nella mente. Allora, robe del genere, diciamo. Gli autori scandinavi li conosciamo, uno è quello di Millennium. Però adesso dovete votare. Io voto per il secondo, quello pseudo psicodramma. Io voto per il primo. Io voto per il primo, poi voglio aggiungere una piccolissima cosa. Delitto e punizione, no? Delitto e castigo. Delitto e castigo va bene in Italia. Siccome in Italia non c'è mai crimine e punizione, non vanno mai, non sono mai sinonimi, la traduzione non andava bene. Certo. È una frecciatina della regia. È una frecciatina della regia. Allora andiamo sul primo e io indovino chi è. Posso? Tu hai un vantaggio troppo grande, però indovina, dai, vai, vai, vai, vai. Dai. Si tratta di un libro di John Nesbo. Lo sapevo. Che è fantastico. Di cosa ci parli stasera? Della Stella del Diavolo. Ah, la Stella del Diavolo, ho capito, va bene. Quello non l'ho letto ancora. Che bello, allora finalmente vi posso raccomandare qualcosa che non avete letto. E si tratta di L'assassino è... Oddio, cioè Giorgio è proprio inarrestabile. Giorgio cancella il microfono. Cioè, soltanto perché l'hai letto anche tu non vuol dire che devi dire tutto. Allora, in un certo senso è un giallo classico, bello nordico, però cioè, cioè il personaggio principale è Harry Hole, è sempre lui, è sempre lui che diciamo è un po' alcolizzato abbastanza spesso, lo è, sì, possiamo dirlo, è geniale soprattutto. E allora cioè, non è che non troviamo mai dei personaggi simili nei romanzi polizieschi, perché secondo me, non so per quale motivo, ma un sacco di scrittori di gialli si immaginano i detective che bevono. Allora deve essere proprio un lavoro di disperazione, quindi tutti bevono un po'. Harry Hole beve un sacco. Però ha questo talento incredibile di mettere le cose insieme e anche la tenacia di seguire una traccia finché praticamente da noi si dice, cioè, se tu cerchi di cancellare finché si forma un buco sulla pagina, cioè praticamente lui ha una tenacia, cioè resiste anche se passano degli anni, anche se ci ha già provato, non ci è riuscito, eccetera eccetera, lui resiste. E proprio questa storia è una storia un po' così, è composta, c'è una trama che, diciamo, si tratta di una serie di assassini di cui si cerca di scoprire il fautore, autore in Oslo. Però dall'altro lato c'è anche questo filo altro, temporaneamente distaccato, c'è un'investigazione di Harry Hole che non è riuscito tempo fa e che comunque c'è un filo che lui continua a seguire perché il suo istinto e la sua esperienza gli dicono che là c'è qualcosa da seguire. E che alla fine si aggiunge a quest'altra storia, quindi diventa praticamente come una casa a vari piani, molto ben costruita. Cioè, sì, che cos'altro vi posso dire? A volte mi voglio lanciare e nel frattempo penso, ma allora vi dico troppo, non va bene. Io controllo da questo lato della stanza. Comunque in questo romanzo hanno un sacco di l'appariscenza ha un ruolo importante, cioè in questo libro niente è esattamente come sembra e questo risulta in un romanzo molto interessante, cioè all'inizio sembra un po' lentino, però lo stile di Nesce è sempre un po' così, un po' leitmotiv, tipo dopo la decima pagina già ti stavo un po' entrando sotto la pelle e dopo un po' voi assolutamente sapere che cosa succede dopo, quindi è un romanzo nordico thriller anche scritto bene, direi. Con delle immagini ma toglimi una curiosità, ma sì, ci sono le immagini, ecco, la naturalistiche, prima immagine è il sapore di uovo. Ecco lì, nel sapore di uovo, ripensando... Sì, sì, sì, non ci pensare neanche. Questo forse ve lo spiegavo, tanto non cambia niente. No, non lo spiegare, ti prego, no. Per favore. Va bene, leggendo... Se no io esco e poi tu spieghi il sapore di uovo, è una roba... Oh. Comunque, secondo me questo potrebbe essere un tratto del giallo nordico, questo un po' di uovo. Semplicità e naturalismo. Cioè, in un certo senso, le cose sono le cose sono nominate sul loro nome. Generalmente gli scrittori nordici non hanno questa abitudine di cercare di fiorire un po' troppo l'argomento. No, le cose sono esattamente quello che sono. La gente è esattamente quello che è. Harry Hole rimarrà un alcolizzato. Uno si preoccupa per la sua compagna. Non è che uno dice che bello e anche nelle descrizioni dei crimini... Cioè, le cose sono quelle che sono, è un po' naturalistico, è poco fiorito, semplice in un certo senso. Però là dove ci sono le complicazioni è piuttosto la trama, piuttosto come le cose sono attaccate uno all'altro, direi. Sì, ci sono dettagli, Sono due cose che volevo dire. Uno, che Oslo è descritta bene, tant'è che io penso che se andassi a Oslo potrei anche ricostruire, se le strade sono vere, il percorso che fa questo personaggio, perché è descritto molto bene, molto bello, anche le prospettive, insomma è quasi una sceneggiatura. E però abbiamo trovato qui c'è scappa il, abbiamo trovato un piccolo errore interessante proprio nella ricostruzione, cioè uno di quegli errori che succede nella scrittura, cioè quelle cose impossibili. Sì, quando qualcuno deve avere tre mani per fare quello che si sta leggendo, che stia facendo. Uno, due, tre e non funziona. Anche sì. Ma qualcuno ci ha scritto un libro sugli errori del nome della rosa, noi potremmo scrivere un libro sugli errori di John Nesbitt, no? Sì, sarebbe però, più che altro un libretto a 1000 lire, quelli brevi, gli ex libretti a 1000 lire. Sì, però devo dire che sono, è anche difficile detettare gli errori in genere, specialmente se un libro ha un buon ritmo e quindi ti trascina dietro, e anche questo ti trascina dietro. Io per esempio non ho notato questo sbaglio, è stato George a notarlo. E poi anche ovviamente, il nome della rosa, per scoprire gli sbagli, io sfido, cioè tu devi avere un certo, non so. Beh, io questo l'ho scoperto semplicemente perché, appunto, diceva una sceneggiatura, cioè mi crea delle immagini. Quindi leggendo John Nesbitt a me vengono in mente delle immagini. Sto vedendo un film in realtà mentre leggo, e quindi nel film si costruiscono delle cose, e a un certo momento appare la terza mano e uno dice ho riletto e in effetti c'è Frankenstein, no, ma c'è una terza mano. No, succede, però è perché è scritto bene che succede, altrimenti non si riuscirebbe a ricostruire. Comunque, Tutto sommato, se volete leggere un bel giallo coinvolgente, con una trama complessa, interessante, con dei personaggi che nella loro grettezza sono molto interessanti, allora vi raccomandiamo calorosamente di leggere La stella del diavolo. Oggi con i titoli non c'è solo una curiosità, è prima o dopo il leopardo? Non lo so. Ah, vabbè. Credo dopo. Ah, quindi è il nuovo, è l'ultimo? Sì. Perché il leopardo era l'ultimo, quindi questo è. Lui era già stato a Hong Kong? Ditemi solo questo. No, è stato in Australia. Allora no, vabbè, ok. Non lo so. Sinceramente non lo so, perché io non è che è il primo John Nesbitt che ho letto. Ah, okay. Quindi, comunque, Tyrannosaurus Rex. Quindi esattamente. Dobbiamo, mi sa, salutare. Eh sì, io ringrazio tutti voi, ringrazio Sara Rattaro che è stata qui con noi, vi ricordo Un uso qualunque di te, edito da Giunti, vi raccomandiamo veramente di leggerlo, è facilmente ritrovabile in tutte le librerie online. Saluto Daniel Mergia. Buona serata a tutti. Saluto il nostro Giorgetto che è come al solito preziosissimo, la nostra Fiordaliso che stasera vi ha portato alla scoperta di un grandissimo autore, John Nesbitt, quindi insomma leggetelo, insomma i suggerimenti di lettura sono tanti per quanti partissero già in vacanza, perché so che già si sta partendo in vacanza. Buone vacanze, martedì. Mando martedì. In vacanza? No, io no, gli altri, io sono ancora qui. Martedì vi saluta, vi auguro un'ottima settimana e ci vediamo martedì prossimo per una puntata super speciale. Ciao. Noi salutiamo martedì.